La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Buon Natale a tutti da Franco D'Assisti, da Peter Bescapè che è qui davanti a me in regia, da Guido Scotti e Isotta Scenna che ci hanno dato una mano, li dico subito così non me li dimentico, che ci hanno dato una mano in redazione. Questa è la puntata speciale di Natale della Rosa Purpurea, una puntata di un'ora per stare insieme, per raccontarvi tutto il cinema che c'è in sala in questo momento, in queste ore, nelle prossime, per un Natale, un Santo Stefano e i prossimi giorni delle feste di buon cinema, ma anche per fare il punto su che cosa è stato il 2013, che ormai fra pochi giorni finirà, che cosa è stato sotto il profilo cinematografico. Lo faremo con quattro grandi nomi della critica cinematografica italiana: Luisa Morandini, Piera De Tassis, Gianni Canova e Maurizio Porro. Ma prima tuffiamoci nel clima cinematografico, nel clima della sala di questi giorni, di queste ore, ed è con noi Sara Sagrati, che saluto. Ciao Sara. Ciao e buon Natale. Buon Natale a tutti. Sei sazia? Hai mangiato il panettone anche tu? Non ne posso più. Non ne puoi più. È così. Con la famiglia bisogna mangiare. È così. Anche perché poi al cinema si rischia di addormentarsi. Questo è un classico dello spettacolo pomeridiano di Natale. Se non becchi il film giusto, bisogna sceglierlo bene. C'è l'abbiocco. Infatti noi cerchiamo di non farvi abbioccare. Questo è il nostro compito di oggi pomeriggio. Allora, abbiamo voluto dividere in quattro macro aree, come dicono quelli che se ne intendono di statistiche, i film che sono in sala già da qualche mese, da qualche mese, perché il buon Checco Zalone è fuori ancora in oltre 200 sale, pur essendo fuori dalla fine di ottobre e anche da pochi giorni, per darvi così un consiglio mirato. E cominciamo questa nostra carrellata con quella che è il genere principe delle feste natalizie, uno dei due generi principe, ovvero la commedia che a Natale è soprattutto italiana. E allora noi cominciamo subito con il sentire questa clip da Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni, e da lì poi cominciamo. Mi chiamo Arnaldo Nardi, sono un uomo serio, un lavoratore e un padre di famiglia. Poi un giorno... E non provare a tornare a casa, E ora dove vo? Se una della sua età deve venire ad abitare qui, ci avrà i suoi problemi. Per me sì. Anche per me. Per me sì. E questa è la sostanza. Per le pulizie generali ci sono dei turni, sono scritti su questa lavagna qui. Se almeno sapessi dov'è, che cosa fa? Sono 3 giorni che non lo vedo. E che quando ho saputo che c'aveva un amante non ci ho visto più. Arnaldo, un amante? Ma che tu mi dici? Leonardo Pieraccioni torna a interpretare se stesso sostanzialmente, oggi quasi cinquantenne, alle prese con un tradimento che non è un tradimento ma che viene percepito come tale, a un allontanamento da casa e a un rifugio per una decina di giorni con un gruppo di giovani studenti che sostanzialmente lo rimetteranno in moto, lo rivitalizzeranno, gli daranno ancora un po' di fiducia in sé. Questo è Un fantastico via vai. Sara, Pieraccioni, avevamo già detto quando l'abbiamo recensito qui alla Rosa, forse un po' in tono minore in questo film, molto garbato, molto educato, non volgare, però insomma mi sembra che l'inseguimento di se stesso di Pieraccioni stia un po' mostrando la corda, perché ci si chiede cosa farà quando compirà 60 anni, augurandogli, come dire, di arrivarci cinematograficamente ancora in forma. Però l'alternativa di cinema italiano è che quest'anno è un po' tornato anche il cinepanettone fra Colpi di fortuna e Indovina chi viene a Natale. Sì, sicuramente la sindrome di Peter Pan dell'eterno bambino Leonardo forse per questo Natale la vediamo già un po' superata. Consiglio al limite di recuperare in DVD Tandem di Luca e Paolo, che era sullo stesso argomento. Per chi non l'avesse ancora visto, sceglierei oggi pomeriggio di recuperare Checco Zalone nella commedia all'italiana divertente, altrimenti c'è l'immarcescibile Christian De Sica che ci porta tra espedienti e talismani contro la fortuna insieme sempre a Luca e Paolo, a Lillo e Greg e al buon Mandelli che fa lo iettatore. E poi c'è la classica commedia invece più familiare di Fausto Brizzi, che insomma ci porta in un pranzo di una famiglia allargata, in un pranzo di Natale con Claudio Bisio, con la Gerini, ci sono Diego Abatantuono, c'è Isa Barzizza che fa questa matrona veramente perfida. Insomma, in base base al vostro tipo di risata preferita ce n'è da scegliere. Ecco, dicevamo, l'altra grande famiglia di cinema natalizio è quella dell'animazione. Quella dell'animazione che negli ultimi anni forse ha perso un po' quella sua caratteristica fortemente natalizia, perché di animazione ce n'è praticamente tutte le settimane. Però, insomma, è pur sempre questo il periodo in cui arriva un film Disney Pixar, arriva anche un film della concorrenza. Noi sentiamo la clip di Frozen. Ciao a tutti, io sono Olaf e amo i caldi abbracci. Olaf? È vero, Olaf! E tu sei... Io sono Anna. Ti ha fatto Elsa? Sì, perché? Tu sai dov'è? Affascinante. Sì, perché? Pensi di poterci indicare la strada? Sì, perché? Come funziona? Ai! E smettila, Sven! Sto cercando di concentrarmi! Sì, perché? Te lo dico io perché... Elsa deve far tornare l'estate. Questa era Frozen, la proposta Disney Pixar di questo Natale, che deve concorrere con Piovono Polpette 2. Un bel duello, tutto sommato. Sì, la neve contro il cibo, le due caratteristiche del Natale. Frozen, il regno di ghiaccio, in questo momento in America ha un incasso che dire mostruoso e dire poco. È il vero successo del Natale. È proprio un classico film Disney, di quelli che insomma, quando non si sa cosa scegliere, mette tutti d'accordo, grandi e piccini, un'avventura epica in un mondo coperto dal ghiaccio. C'è stata insomma una maledizione contro questo paese e gli eroi di turno devono percorrere un viaggio per risolvere la situazione. È travolgente, trascinante, e sicuramente si divertono i bambini, ma si divertono anche i grandi passando una piacevole due ore tutti insieme. Mentre Piovono Polpette 2, la rivincita degli avanzi, uscirà in realtà il 26 dicembre, quindi domani. Praticamente è la storia di un macchinario, come per chi non avesse visto il primo, che fa piovere cibo, fa piovere hamburger, fa piovere patatine, e bisogna a questo punto ripulire da tutta questa massa di cibo che era caduta e bisogna trovare una soluzione. Favola più sugli avanzi, la seconda, ma molto più ecologista forse la prima, quella di Disney, ma sempre molto divertente. Ecco, Sara, detto dei due grandi colos, anzi tre grandi colos, all'uno fa un po' da ponte, che sono lo Hobbit, che sono Hunger Games, e che in un certo senso è anche I Sogni Segreti di Walter Mitty, di Ben Stiller, che però ci fa appunto da ponte anche sul cinema un po' più d'autore. Per la proposta d'autore di questo Natale c'è tanta roba, come si suol dire, perché c'è Woody Allen con Blue Jasmine, che vale sempre la pena vedere, tra l'altro un ottimo Woody Allen. C'è Filomena, che è un grandissimo ritratto di donna di grande sofferenza. C'è lo straordinario Venere in pelliccia di Roman Polanski. C'è Molière in bicicletta, che rivitalizza il grande cinema francese di parola. Insomma, la scelta non manca. La scelta per gli amanti di cinema non manca, assolutamente, sono d'accordissimo. Per quanto mi riguarda, per chi non l'avesse visto e trovasse una sala che ancora lo proietta, correrei a recuperare Venere in pelliccia, perché è un film straordinario. Tra i colossal, ovviamente, gli amanti della saga del Signore degli Anelli non potranno perdersi il secondo episodio del prequel del Signore degli Anelli, che è lo Hobbit, la desolazione di Smaug. Io personalmente l'ho trovato soporifero, per cui oggi pomeriggio non riuscirei mai a sopportarlo dopo il pranzone, è molto lungo e molto lento. Sicuramente per chi non l'avesse visto, Hunger Games invece è molto più coinvolgente, molto più eccitante, con una Jennifer Lawrence armata di tutto punto, sotto ogni punto di vista, che proprio ci entusiasma. Molto molto più natalizi invece, sia per tema sia per non so, quel tocco di commedia drammatica, ma che ci fa stare bene, sono I Sogni Segreti di Walter Mitty di Ben Stiller e Filomena di Stephen Frears. Forse il Walter Mitty Ben Stiller è più natalizio, perché ci parla dei nostri sogni, dell'inseguire i nostri sogni, ma Filomena è uno di quei film, per intenderci, che ha messo d'accordo col premio dei cattolici, il premio degli atei a Venezia, veramente tutti quanti. Assolutamente, una straordinaria doppietta questa, bellissima. E io, perché abbiamo pochissimi secondi, voglio ricordare che c'è al cinema anche Dietro i candelabri, che non è molto natalizio come tema, diciamo così, ma è uno straordinario film. Esatto, assolutamente, ma è uno straordinario film con attori eccezionali come Matt Damon e Michael Douglas, e la regia sempre raffinata di Steven Soderbergh. Grazie alla nostra Sara Sagrati e a risentirci per parlare anche un po' di quello che verrà nel prossimo 2014 nel cinema. Grazie ancora Sara. Tanti auguri anche ai colleghi che stanno arrivando molto più bravi di me. Ciao. E allora Viabilità, fra poco si comincia a fare il bilancio del 2013 insieme a Piera De Tassis. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora qui, la Rosa Purpurea, speciale Natale. È arrivato il momento, dopo aver parlato un po' di quello che c'è oggi in sala, di cominciare a fare un po' un viaggio nel tempo recente, in un passato prossimo che cominciava più o meno un anno fa, all'inizio del 2013, che ci ha portato poi attraverso gli Oscar, Berlino, Cannes, Venezia, e tutto quello che c'è stato, successi, insuccessi, flop e top, ci ha portato a chiudere praticamente cinematograficamente questo 2013. Noi vogliamo farlo qui in questo speciale alla Rosa Purpurea con alcuni prestigiosi colleghi che ci hanno così dato una mano, ci hanno offerto disponibilità per ragionare un po', anche in termini un po' schematici se vogliamo, su cosa rimane fra le nostre mani in questo 2013 cinematografico. E cominciamo con Piera De Tassis, che saluto, direttore di Ciacco, direttrice, non so mai come si dice, ma comunque, ciao Piera, buon Natale anche a te. La regina, signora, quelle cose lì. Buon Natale. Buon tutto. Ti immagino con un cappello rosso col pompon bianco, sbaglio? Sì, no, ma quest'anno ho comprato le scarpe rosse. Ah, beh. Ho delle meravigliose scarpe pump, come dicono. Passo in avanti decisivo. Che mi sono servite in realtà per presentare il Natale delle mamme imperfette, perché così doveva essere, e allora adesso ho uno spegno scarpe, un paio di scarpe rosse, anche una sciarpetta rossa. Senti Piera, il gioco qui è farvi raccontare i vostri 5 film preferiti di questa stagione, e so che tu, tanto per cominciare, hai amato molto, e lo metti nei tuoi primi 5, un film d'animazione, ma che ormai non è più solo animazione, ovvero Cattivissimo Me 2. Sì. No, io ho amato Cattivissimo Me e Cattivissimo Me 2, però devo confessare che quello che mi incanta davvero, come vale questo per milioni di spettatori, sono i Minions, al punto da aver dedicato un corso di lingua Minion in minionese, che potrebbe suonare anche molto male se declinato, ai lettori di Chuck. Quindi abbiamo studiato il banana language, il famoso banana language, e quindi mi è sembrata un'invenzione strepitosa. Poi anche in un anno in cui Cattivissimi un po', insomma, ci sono piaciuti e ho visto che anche i miei lettori li hanno molto sottolineati, un anno di grandi cattivi, però ecco, avere un cattivo redento o sulla via della redenzione come protagonista di Cattivissimo Me era fantastico per noi. E poi insomma, il cartoon ormai è diventato un genere per adulti, o noi adulti siamo diventati un genere da cartoon, non saprei dire qual è la verità, ma insomma è un po' così, no? Assolutamente. Senti, ma tu hai già indicato una delle linee rosse di questa stagione, di quest'anno che si va chiudendo, che è quella appunto dei cattivi. Me ne viene in mente un'altra, che è quella dei soli, degli uomini, delle donne, dei giovani soli o comunque non del tutto capaci di comunicare i propri sentimenti. È il caso per esempio dei protagonisti del Lato Positivo. Sentiamo questa clip. Come fai a sapere quando corro? Volevo chiarire una cosa. Voglio solo che siamo amici. Hai sentito cosa ho detto? Perché mi devi complicare la vita? No, non ti sto complicando la vita. Non so come comportarmi con te quando fai lo stronzo. Ceniamo in questa tavola calda. Passa a prendermi alle 7:30. Silver Linings Playbook, titolo originale del Lato Positivo, film con Bradley Cooper e soprattutto direi con Jennifer Lawrence, consacrata anche nella notte delle statuette da questa interpretazione. È nata una stella? Ma è sicuramente nata una stella, sicuramente. Jennifer Lawrence è oggi insomma davvero la protagonista del cinema americano. Però la vera stella che è nata, secondo me, grazie soprattutto al Lato Positivo, ma già prima The Fighter, è il regista David Russell, che sarà grande protagonista anche degli Oscar di quest'anno, secondo me, con American Hustle. E a proposito di quello che dicevi sulle anime sole perdute, certamente David Russell è nella trilogia appunto di questi film che ho citato racconta questo, lui lo racconta anche molto esplicitamente, lo dice, ha avuto una grande crisi personale, un figlio che ha la stessa, che è bipolare come il protagonista del lato positivo con film che io ho amato moltissimo, e questo lo ha reso molto sensibile proprio al racconto della redenzione delle anime sole o perse, insomma. È un tratto molto umano che si aggiunge a una grande abilità registica, ma che rende più corposo quello che è un cinema di stare, un cinema anche molto hollywoodiano per certi versi, di Davide Orassi. E allora, in attesa poi di vedere appunto anche sugli schermi e di parlarne anche qui alla Rosa di American Hustle, c'è un altro film invece passato da un mesetto più o meno in sala, che è un film che ha suscitato intanto grandi divisioni. Certo è un film che ci mette di fronte a un interrogativo campale, cioè cosa saremmo disposti a fare pur di proteggere fino in fondo o farci giustizia fino in fondo secondo il nostro senso di giustizia per proteggere appunto i nostri figli, forse il bene che amiamo di più. È Prisoners, ne sentiamo una parte e poi ne parliamo. Allora, le riconosci? Non le vedo bene, mi fa sedere. Che fai nel camper? Rispondi alla domanda. Ci dormo. Ci dormi? Stavi dormendo nel camper? Mm-hmm. Di giorno? Perché il camper era parcheggiato davanti a quella casa? Ero andato a farmi un giro. Eri andato a farti un giro? Non stavi guidando. Le bambine stavano giocando lì intorno. Non stavi guidando, eri parcheggiato. Era un giorno speciale. Avevi intenzione di rapirle? No. L'hai mai fatto prima? No. Le hai fatte salire sul camper? No. Le hai fatte salire e poi le hai portate via? No. Le hai portate da qualche parte? Posso sedermi? Parla, le hai portate da qualche parte? So che le hai portate da qualche parte. Piera, uno dei film amati da Piera De Tassi del 2013 è Prisoner. Se non sei l'unica fra i nostri ospiti, poi vedremo. Possiamo dire che la famiglia americana si fa giustizia da sé ormai? Sì, devo dire, non riesco a dare una lettura così semplice di questo film, che è un film che anche a me personalmente è molto disturbato. Tutta la parte appunto che in cui Paul Dano viene rinchiuso, insomma, non vorrei svelare chi non l'ha ancora visto, però è un film che disturba. Ci sono delle grandi interpretazioni, perché da Hugh Jackman, ma soprattutto Jack Gyllenhaal, Jack Gyllenhaal è la cosa che più mi ha colpito e coinvolto nel film. L'interpretazione è veramente straordinaria nel ruolo di un poliziotto che cerca di fermare, che cerca di arrivare alla conclusione, ma cerca contemporaneamente di fermare la vendetta del padre o comunque il tentativo di giustizia da sé, cerca di controllare questo pur sospettandone ma non essendone sicuro. Non so se la giustizia, se la famiglia americana, sì, c'è questa tendenza, c'è questo filone, c'è sicuramente un incrudelirsi da un lato della violenza e dall'altra dal tentativo di sopperire con le proprie forze a quello che ci sembra un'ingiustizia e alla mancanza di giustizia. Ma il film non vale per questo, secondo me vale proprio per la capacità di raccontarci con una narrativa veramente stringente, con grandi attori. Devo aggiungere Melissa Leo e Paul Dano alla lista che ho fatto, e di stringere attorno ai personaggi senza lasciarsi il fiato, con una grandissima capacità di messa in scena che ti prende la gola, allo stesso tempo però di non scegliere chi è il mostro. I mostri sono tutti, perché è mostro chi lo è davvero, ma è mostro anche chi cerca di affermare il mostro. Insomma, non c'è limite alla violenza che hai dentro, che puoi, che non sai di avere dentro, ma che puoi trovare in tutti i modi, e non c'è limite neppure alla vigliaccheria, quindi al silenzio e all'omertà. Ecco, ricordiamo per riepilogare che fanno parte delle nomination 2013 di Piera De Tassis anche La grande bellezza, La vita d'El, Django e Filomena. Li diciamo in carrellata perché non c'è tempo per sviscerarli tutti. Grazie a Piera De Tassis, ancora buon Natale, buon 2014, viva Chuck, viva il cinema e viva il grande schermo che ci regala ancora grandi emozioni. Viva il grande schermo, viva il cinema, ma viva anche il cinema in tutte le declinazioni, vi prego, perché il cinema è una grandissima cosa. Grazie ancora, ciao Piera. Allora, Piera De Tassis, il primo dei grandi ospiti di questa puntata speciale Natale della Rosa Purpurea, per fare il punto, sì certo, su quello che c'è in sala, ma anche su quello che il 2013 ci ha regalato. Adesso andiamo a sentire un altro ospite che ci darà la sua lettura, ovvero Gianni Canova, che è già in collegamento con noi. Ciao Gianni! Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, buon Natale anche a te Gianni, in questa puntata speciale natalizia, che vive su una sorta di bilancio che stiamo facendo con voi, cioè cosa ci ha lasciato il 2013, cosa ci sta lasciando il 2013 in questa stagione cinematografica. So che tu hai fatto una scelta molto molto particolare, quindi te la voglio far svelare. Un 2013 da Viva l'Italia. Sì, nel senso che se ripenso alla mia memoria appassionata di cinemaniaco, mi vengono in mente soprattutto film italiani. Mi viene in mente Un colpo di fulmine, un film che ho visto a oggi 8 volte, che è La grande bellezza di Paolo Sorrentino, un film che ogni volta che lo rivedo, che l'ho rivisto, vedo tutti gli errori, le criticità, gli scricchiolii, e tuttavia, come con una donna, mi fa impazzire. Per cui credo che sia un film che, come dire, ha riacceso in Italia le discussioni sul cinema, su che cos'è il cinema, che cosa serve, ma se ne parlerà ancora fra anni. Credo che abbia davanti a sé anche la possibilità di avere un 2014 memorabile, quindi è la mia prima segnalazione. E le altre 4 sono altri film italiani: L'arte della felicità di Alessandro Rack, film d'animazione, secondo me il film che meritava di vincere Venezia se selezionatori un po' più coraggiosi, spregiudicati e anticonformisti l'avessero messo in concorso invece di relegarlo in una sezione parallela, ma è un film bellissimo che rilancia una scuola di animazione italiana di altissimo livello sia concettuale che emozionale. Poi ci metto Come il vento, film interpretato da una strepitosa e grandissima Valeria Golino nei panni di una direttrice di carceri italiani realmente esistita, in un film dolente, graffiante, sofferto, grigio, con un personaggio che Goldino fa in maniera straordinaria sullo schermo, un film che a me è come se mi avesse scorticato l'anima vedendolo. Ci metto ancora La mafia uccide solo l'estate di Piff, perché lo trovo uno dei film più innovativi dell'anno. Ci metto La migliore offerta di Giuseppe Tornatore come grande esempio di blockbuster di qualità, un film d'autore, di genere, un film che torna a misurarsi coi generi e che arriva a incassare oltre 10 milioni di euro, a dimostrazione del fatto che non è vero che gli italiani vogliono solo le commedie. Quando si fanno film anche di altri generi capaci di emozionare e di raccontare delle storie che dicono qualcosa al pubblico, il pubblico le va a vedere. Non l'ho ancora visto, ma credo che da quanto l'ho letto mi sarebbe piaciuto molto un sesto film, anch'esso italiano, che si chiama Medeas, ha vinto nei giorni scorsi il Festival di Marrakech, è stato lodatissimo da Martin Scorsese, da Paolo Sorrentino, da tutti i giurati, però è un film che non ha ancora distribuzione, a dimostrazione del fatto che spesso chi governa il sistema del cinema del nostro paese ha degli sguardi molto fiacchi, vecchi, stanchi e tradizionalisti e non riesce a individuare il nuovo che pure c'è e si fa largo nel mondo, anche se da noi arriva sempre un po' troppo tardi. Allora Gianni, bellissima disamina, io però fra poco, dopo aver dato la linea alla regia, voglio approfondire con te un paio di film e far sentire anche un po' di questi suoni, fra pochissimo. La Rosa Purpurea. Ancora qui con La Rosa Purpurea speciale Natale, in questo pomeriggio natalizio che prelude, immagino, spero, a una vostra, almeno se già non siete al cinema, insomma, qui, se siete al cinema non ci state sentendo, però che preluda almeno a una bella serata cinematografica. E poi c'è Santo Stefano, ci sono le feste. Quello che stiamo cercando di fare oggi è sì di raccontarvi cosa c'è in sala, ma anche di guardarci indietro di quasi un anno e di vedere che cosa il 2013 ci ha regalato. Siamo in collegamento con Gianni Canova. Gianni, in un minuto riesci a raccontarci un po' anche il tuo 8 e mezzo, che è questa rivista molto molto interessante che dirigi? Ma Sì, è una rivista che parla di cinema e non di film, nel senso che non ci sono recensioni, non ci sono interviste agli attori, ai registi, ci sono dei ragionamenti sul sistema cinema nel nostro paese, e quindi è una rivista che parla di produzione, distribuzione, comunicazione, strategia, è una rivista di politica culturale che ha l'ambizione di rilanciare la reputazione del cinema italiano nel mondo, che cerca di scoprire i nuovi talenti, per cui ogni volta dedica degli approfondimenti particolari a chi in Italia fa animazione, a chi crea le web series, a chi sta rinnovando il cinema con la pratica del low budget, quindi facciamo veramente scouting di numero in numero. Ogni numero si apre su domande provocatorie, problematiche. Il primo numero era siamo davvero un paese di analfabeti filmici? La risposta era drammaticamente sì, purtroppo siamo il paese europeo a più alto tasso di analfabetismo filmico. Servono ancora qualcosa i festival del cinema? Perché in Italia si ha così paura del successo? Ha ancora senso vedere i film in sala? C'è sempre la copertina bianca, una domanda secca, e dentro pagine di riflessione in cui si cerca di dare una risposta. Molto bene, avremo modo poi di parlarne anche in futuro qui alla Rosa. Torniamo alle tue scelte per il 2013. La grande bellezza tu l'hai messo all'inizio di questo tuo racconto, hai detto che sei arrivato 8 volte, l'ultima volta che ci siamo visti erano 7, quindi vuol dire che l'hai rivisto un'altra volta. Sì, ci ho accompagnato i miei studenti. Nel frattempo... studenti, perché avevo fatto lezione alla Dolce Vita e quindi ho detto adesso andiamo a vedere la grande bellezza, perché evidentemente è un grande omaggio al film di Fellini, certo. E quindi abbiamo fatto anche un lavoro filologico di ritrovare tutti i numerosissimi omaggi e riferimenti e citazioni felliniane che ci sono nel film. Allora ascoltiamone una clip e poi ne parliamo un attimo. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. E ci sono riuscito. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. E allora le parole di questo personaggio straordinario, di questo gambardella, Tony Servillo, perché... come dire, un grande appassionato di cinema, un grande conoscitore di cinema come Gianni Canova, che però, come dire, di film nella sua vita ne avrà visti tipo 10.000, ne va a vedere 8 volte lo stesso nel giro di 3 mesi. Cioè, qual è la chiave, insomma? Raccontaci un po'. Innamoramento. Credo che chiunque ci ascolta l'abbia provato nella vita. Cioè, vedi una cosa e perdi la testa, ti fa impazzire. Non mi succedeva più da quando, da bambino, mi sono innamorato del cinema, però quelli erano amori ingenui, erano amori infantili. Questo è un amore maturo, e quindi un amore consapevole, è un amore, come dire, ho ritrovato quel gusto del cinema che ti fa vibrare, che ti prende la pancia, la testa, il cervello e il cuore contemporaneamente, che ti fa pensare e ti fa godere nello stesso tempo. Non ci sono motivazioni razionali, mi piace una volta tanto dire questo film mi ha dato piacere, che è una poi delle cose per cui, come dire, siamo al mondo, insomma. Non mi capitava da tempo, lo confesso, di provare un piacere visivo così intenso, ma poi anche cognitivo, intellettuale, cioè così intenso di fronte a un film. Così l'ho visto 8 volte. Senti, Gianni, ti faccio una domanda che potrebbe campeggiare magari, chissà, ambiziosamente su una delle copertine di 8 e mezzo della tua rivista. Può questo film vincere l'Oscar? E lo vince, scommetto. E serve ancora, e a cosa serve oggi vincere l'Oscar? Beh, vincere l'Oscar è uno dei pochi premi che servono ancora, sia dal punto di vista reputazionale che dal punto di vista commerciale. La nostra cinematografia ne ha un gran bisogno. Noi non vinciamo l'Oscar da ormai 15 anni, ricordo che l'ultimo Oscar fu Benigni nel 97-98, oddio. Sto invecchiando, comunque siamo 97, quindi sono ormai 15 anni e non siamo più entrati neanche nelle nomination, credo dai tempi della Bestia nel cuore della Comencini, quindi sono parecchi anni anche lì. credo che questa volta abbiamo il cavallo di razza che può non solo entrare nelle nomination ma addirittura vincere. Io credo che ci sto scommettendo, ho amici un po' da tutte le parti del mondo che mi dicono da Londra agli States, dove il film è uscito, viene visto, piace anche perché ci vedono banalmente una riproposizione di Fellini, il film è molto di più, però l'eco che sta avendo, gli incassi, a Londra ha fatto degli incassi incredibili, per esempio ha vinto un sacco di premi agli Oscar europei, va ai Golden Globe, insomma il time l'ha inserito nella lista dei 10 film dell'anno a livello internazionale e qualcosa magari sì, conterà pure, pesato per il gusto americano, certo. Quest'anno vinciamo l'Oscar. Senti, però, allora ci risentiamo la mattina dopo, rettifichiamo giusto perché i nostri ascoltatori sono molto esigenti, giustamente l'Oscar l'ha vinto nel 99, il film è del 97, La vita è bella, ma l'ha vinto nel 99. Detto questo, ancora buon Natale, ancora grazie per essere stato con noi a Gianni Canova e ci risentiamo la mattina dopo gli Oscar. Grazie, buona Ciao Gianni. E allora, questo era il parere di Gianni Canova. Vedete come è vario il cinema, il mondo del grande schermo ci regala sfaccettature che sono davvero uniche, anche di fronte a personaggi del mondo della critica italiana così, così importanti. E noi adesso andiamo a sentirne un'altra di queste nostre ospiti, potremmo dire un nome un dizionario in un certo senso, perché Luisa Morandini insieme al grande Morando Morandini, grande maestro della critica cinematografica italiana, è l'anima di questo dizionario che è appunto il Morandini, che tutti gli anni fa il computo di cosa salvare, una sorta di piccolo patrimonio dell'umanità cinematografica dentro quel dizionario, dentro quelle 12, 13, 14 mila voci. Ogni anno un migliaio escono, un migliaio entrano, alcuni giudizi vengono rivisti, insomma ogni anno un volume a dire questo è quello che 100 anni e rotti di storia del cinema hanno rappresentato. È con noi Luisa Morandini, che saluto. Ciao Luisa. Ciao a tutti, buonasera. Intanto buon Natale, visto che appunto ci accompagni in questo pomeriggio natalizio per raccontarci un po' cosa rimane fra le dita di questo 2013 al cinema. Cosa rimane per te, cosa rimane dentro il vostro dizionario? Voi siete molto rigorosi e quelli che beccano le famose 5 stelle non sono tantissimi, no. Ce ne sono stati quest'anno, quali sono? Raccontaci un po'. Allora, non ce ne sono stati di 5 stelle, siamo stati rimproverati perché dicono che siamo molto severi su questa messa accesa delle 5 stelle, abbiamo promesso che per la prossima educazione faremo uno sforzo, ci hanno chiesto di arrivare ai 100 film con le 5 stelle, per cui faremo delle modifiche in questa direzione di bontà, ci ripromettiamo un 2014 più buono. Che cosa è rimasto? A parte la presenza delle serie TV, ma se vuoi ne parliamo dopo, nel nostro dizionario nuovo, che cosa è rimasto del 2013? Ma un finale bello, io ho fatto un po' di controllo e ho visto un inizio buono e un finale bello del 2013, almeno dal mio punto di vista e dalla nostra opinione personale. Se dovessi dire quali sono i film che mi sono piaciuti di più, ecco, dici il primo così vediamo se abbiamo azzeccato con le nostre clip. Django. Ecco, Django. Allora, Django, sono contento perché Django ancora era stato, diciamo, detto da Piera De Tassis, non era stato detto da Gianni Canova, che ha messo lì 5 titoli tutti italiani, ha fatto una scelta molto particolare, però è un film ricorrente durante questa nostra puntata. Allora io ne voglio ascoltare una clip per poi parlare un attimo con Luisa. Come ti chiami, giovane? Si chiama Django Freeman. Dove l'avete rimediato? Un fortuito susseguirsi di eventi ha portato Django sulla mia strada. Ho sentito parlare di te. Ho sentito che dici che tutti quei mandingo sono meno di nulla, che non ce n'è uno che valga la pena di comprare. Sono curioso. Com'è che sei così esperto di mandingo? Sono curioso del perché siete così curioso. Che hai detto, giovane? Calma, Butch. Non voleva offendere. E non ha offeso. Non voleva offendere e non ha offeso. La chiosa di Leonardo DiCaprio in questo straordinario dialogo e anche straordinario momento di uno straordinario film. Cui... E che mi fa un effetto sentirlo in italiano, non l'ho mica visto in italiano. Ecco, vedi, ti abbiamo regalato una nuova emozione. Però devo dire, è doppiato molto bene, bene anche nella resa dell'atmosfera, che molto spesso è quella che si rischia un po' di perdere. Invece qui devo dire che è stato fatto un doppiaggio veramente adeguato. Allora, Tarantino che ha proseguito con questo film un suo percorso, secondo me, di irrobustimento autoriale, non so come dire, no? Lui è stato un uomo di genere, un uomo di sfida per tanti suoi film, adesso con gli ultimi due, secondo me, ha dato una rotondità ai suoi film che prima forse mancava. Ma guarda, nella nostra scheda abbiamo addirittura scritto, se non mi ricordo male, che forse è il più politico di Tarantino, nel senso che è uno dei più forti, a mia opinione, uno dei più forti film antirazzisti che si sono visti sotto questa etichetta del western, sotto grandemente spettacolare, con un grande cast, eccetera, però diavolo, c'è un discorso durissimo sul razzismo, contro il Ku Klux Klan, molto interessante da tanti punti di vista. Quasi lo promuovo a 4 pallini, infatti, l'anno prossimo, perché ne ha solo 3.5. Allora qualcosa forse bisogna. Io sai cos'è? Io, secondo me, l'unica cosa, magari tu non sarai d'accordo, l'unica cosa che un po' nel film si poteva evitare era un po' questa sorta di doppio finale. Per capirci, dopo l'incendio della casa, secondo me il film poteva finire lì. No, io, secondo me, va bene. Poi, insomma, anche che finisca così, io ero felice, contenta, dai. No, è un film che dà una grande, grande soddisfazione. No, sicuro, agli occhi e anche alle orecchie, perché i dialoghi sono straordinari. Anche i dialoghi sono strepitosi, i costumi sono bellissimi, non c'è un momento di caduta, di ritmo, di niente. In più ci sono i contenuti, attori bravissimi, che cosa si può volere di evviva. Più? Allora, evviva Tarantino, sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo con Luisa Morandini perché dobbiamo parlare anche stavolta di cinema italiano. La Rosa Purpurea. Quarta parte della nostra Rosa Purpurea speciale Natale, è un grande piacere parlare con questi autorevoli colleghi di cinema, di quel che è stato il 2013 al cinema. Siamo con Luisa Morandini, stiamo parlando delle sue scelte, della sua top 5, di cosa salvare soprattutto di questa annata cinematografica. Abbiamo parlato di Django Unchained, ma a Luisa sono piaciuti molto anche Lincoln, che è un po' forse l'altra faccia di Django, che il lato positivo, ne abbiamo parlato prima anche con Piera De Tassis, Still Life, ne parleremo diffusamente fra poco con Maurizio Porro, un po' la sorpresa. Uno forse l'unico di questi film che sono venuti fuori in queste nostre chiacchierate che è attualmente in sala perché è appena uscito, quindi è davvero una ragione per andare a vederlo. Anzi, le prime cronache parlano di una media per copia nei primi giorni di a 5.000 euro, che è una media spropositata per questo film, che sta avendo evidentemente un successo, un gradimento di pubblico straordinario. Quindi veramente un consiglio per un Natale e un Santo Stefano alternativi al cinema. Però dicevamo, parliamo di cinema italiano tout court con Viva la Libertà. Sentiamone una clip. I suoi elettori non hanno molti motivi per allegrarsi. Ho letto delle critiche piuttosto dure sul suo blog e su quello del partito. I miei elettori fanno bene a stancarsi di me, anch'io del resto mi stanco spesso di loro. Vabbè, forse questo, onorevole, è meglio che non lo riporti. No, anzi, scriva anche questo. Se i politici sono mediocri è perché i loro elettori sono mediocri, e se sono ladri è perché i loro elettori sono ladri, oppure vorrebbero esserlo. Uno straordinario Tony Servillo in Viva la Libertà di Roberto Andò. Luisa, un film che mi fa pensare che il cinema italiano ancora oggi, quando vuole, sa raccontare la società italiana con una capacità, un'arguzia, una levità davvero straordinaria. Sì, direi che solo un uomo di sinistra, intelligente e spiritoso, riesce a essere così autoironico su se stesso come classe politica. Come è un film che parla della sinistra e ne parla da sinistra in maniera autocritica, con una raffinatezza ci sono scene memorabili di ironia e di autoironia che trovo strepitose, oltre al fatto che protagonista in doppia parte è uno dei miei attori preferiti, a parte Zingaretti che è in copertina da noi, l'altro è Tony Servillo, che è un altro attore straordinario che può fare qualunque cosa e che non a caso fa anche tanto teatro. Però sono, sì, questo sì, ti fa sperare che ci siano delle possibilità di cambiamento, non solo nel cinema ma anche nella società e nella realtà politica italiana, quando vedi un film così. Assolutamente, no? Un film straordinario. Mi fa pensare che pensavamo da qualche anno ormai che Tony Servillo fosse, come dire, l'attore del cinema italiano ormai punta dell'iceberg e avanguardia assoluta, ma è incredibile come ogni anno lui ci piazzi dentro una o due interpretazioni che ti fanno ricredere in avanti. Certo. E quest'anno è stato l'anno di Viva la Libertà e della Grande Bellezza. Esatto. Quindi, insomma, cioè, I malvagi, maligni, invidiosi dicono che continua a ripetere sempre se stesso, ma veramente non capiscono nulla, perché è sempre diverso. A parte che in questo film, nella parte del fratello Pazzo, ha dei guizzi negli occhi, dei dettagli che soltanto Dirk Bogart riusciva a fare, delle cose così piccole di recitazione, strepitoso. Viva la libertà, viva il cinema, grazie a Luisa Morandini. E insomma, al cinema tutti, continuate ad andare al cinema, ecco, andateci perché ne vale sempre la pena, non solo a Natale. Grazie ancora Luisa, a presto. A prestissimo, buon Natale, ciao. E allora, siamo quasi in chiusura, però ci serve la quarta, due donne e due uomini, no? Quindi abbiamo il quarto seme del nostro Poker Dassi, ovvero Maurizio Porro, Corriere della Sera, che saluto e al quale chiedo proprio di partire da qui, visto che siamo quasi in chiusura, di cominciare a tirare le fila su che anno è stato il 2013 per il cinema. Maurizio. Beh, direi che è stato un anno tutto sommato dal punto di vista della qualità abbastanza positivo, molto contraddistinto da una mutazione sempre più accelerata verso un nuovo modo di intendere e di consumare il cinema, sia dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, quindi tutti i trucchi e di tutti gli effetti possibili, e anche dal punto di vista dei luoghi, per cui sempre meno sale, sempre meno monosale, sempre più multiplex, sempre meno distribuzione ragionata, tradizionale, sempre più distribuzione satellitare, digitale, di eventi, in modo che il cinema diventa un po' alla volta un contenitore in cui non passano solo i film, ma arrivano anche altre esperienze culturali, concerti, le mostre d'arte, eccetera, che va benissimo, ma in qualche modo il cinema, il film in sé perde anche così una sua priorità in questo senso. Ma tornando invece proprio al cinema in sé, ai film tradizionali, a quelli cui siamo abituati, devo dire che dopo un avvio, un anno un po' infelice, devo dire in quest'ultima parte sono arrivati dei film abbastanza particolari che mi hanno fatto ricredere, insomma, soprattutto è un Natale molto curioso, perché per chi si ricorda ancora i Natali con Cenerentola e con Cinepanettone, oggi il Natale del 2013 invece è pieno di film molto particolari, molto diversi, molto d'essé, molto per un pubblico selezionato, anche di argomenti insomma non natalizi, come la gente che muore da solo e gli infanti rapiti. Ecco Maurizio, hai fatto un accenno appunto a Still Life. Noi abbiamo avuto proprio qualche giorno fa, un paio di puntate fa, ospite Uberto Pasolini, che ci ha un po' raccontato questo suo film, che a mio modo di vedere lo sdogana definitivamente dal ruolo in cui lui si autoconfina, quello di produttore prima di tutto, e ci consegna un autore, un regista che ha fatto un dipinto con questo straordinario Eddie Marsan di un personaggio che ci rimarrà davvero in mente per tanto tempo. Sì, assolutamente, un personaggio un po' gogoliano, di un burocrate che però ci colpisce il cuore, perché è un burocrate che in fondo ha a che fare invece col fattore umano, con l'uomo, con la poesia, con la solitudine, con l'umanità. Quindi è un film, è vero che è una storia così, diciamo, privata, però è anche una grande storia di solitudine contemporanea. Purtroppo, come lei saprà, suo padre è deceduto. Sì, 6 settimane fa. L'abbiamo contattato. Beh, ecco, vede, questo ufficio si occupa di rintracciare i parenti di chi è morto nel municipio. E in mancanza di... Sì, sì, suo padre... No, non c'è alcun obbligo per i parenti di pagare il funerale. Senti, al di là di questo Still Life, dacci... E di questo attore meraviglioso che dovrebbe fare causa alla giuria della Mostra di Venezia per non averlo premiato. Assolutamente sono d'accordo con te, ma sappiamo che quella dell'ultimo verdetto di Venezia è stata un'avventura forse anche un po' da ridiscutere. Detto questo... altro titolo che ti è rimasto di quest'annata, e andiamo un po' indietro col tempo, è stato il Django di Tarantino. Sì, anche perché insomma non sono un fan di Tarantino a tutti i costi, sempre e comunque, però devo dire che gli ultimi due film sono uno più bello dell'altro, onestamente. Sono proprio la pasta di cui sono fatti gli incubi del cinema, sia Bastardi senza gloria sia Django. Nonostante di contro direi la volontà di Tarantino, che dovrebbe solo essere il citazionista del cinema trash, invece secondo me la grande sua qualità è proprio quella di non essere solo questo, ma di essere capace di citare sì il western italiano, ma nello stesso tempo poi dopo 3 secondi incomincia una sequenza di mezz'ora intorno a un tavolo dove lui si lancia in una prodigiosa così vocazione di dialoghista, di regista quasi teatrale, per cui c'ha veramente due facce Frankenstein Tarantino, e sono tutti e due a pari merito, è bravissimo nel fare entrambi, per cui trovo che Django, esattamente come gli altri, almeno quelli riusciti, si inserisce proprio in questo meraviglioso simbolo di cinema d'azione, che però riesce anche a squarciare il velo dell'azione e a diventare un cinema commedia, quasi un cinema da chiucco, un cinema in cui la gente parla intorno al tavolo. Ecco, è sicuramente il tema forte di questa parte finale della stagione, il crescente raggranellare di premi e di citazioni di nomination della grande bellezza. Ora ci affacciamo, come diciamo, anche a un momento importante come quello poi del viaggio verso gli Oscar. Il cinema italiano, si dice, ha ritrovato la capacità di uno sguardo grande, di uno sguardo che sia poetico, che voli sul paese, che ne colga l'anima senza per forza raccontarne le cronache. Che rapporto hai avuto con il film di Sorrentino? Io ho avuto un ottimo rapporto, l'ho visto 3 volte e devo dire che ogni volta mi ha convinto sempre di più. La considero la messa in opera della profezia di Fellini, della Dolce Vita. La Dolce Vita era, appunto, come tutto Fellini, profetico, e La grande bellezza è Dolce Vita oggi nei tempi trash che stiamo vivendo. Credo che finalmente, forse, speriamo, senza azzardarci troppo, potrebbe essere giunto il momento in cui anche all'estero ci si accorge di un autore come Sorrentino che, senza esagerare, senza coinvolgere tutto il cinema italiano che giace ancora in sofferenza, però lui, insomma, è capace di raccontare il paese di oggi, è capace di costruire i personaggi, è capace di manovrare un racconto senza racconto, è capace di dirigere attori, prova di servirlo, naturalmente straordinari, ma anche tutti gli altri. Io credo che La grande bellezza in qualche modo ci rappresenterà a lungo. E ahimè non è certo una rappresentazione ottimistica, ma non è che si richieda questo, insomma. Speriamo che in America abbiano la stessa sensazione. Speriamo davvero. Beh, insomma, i primi segnali con i Golden Globe sono interessanti. Un altro paio di titoli nella tua top 5, diciamo così, magari minori, però che ti senti di salvare in questo 2013? Io mi sento di salvare Anna Karenina, non tanto per le origini nobili, ma quanto perché è un film che parla del teatro, è un film fatto con la materia del teatro, è un film fatto proprio materialmente in contrapposizione e complementare e complice il teatro. Per cui trovo che sia una rilettura di un classico assolutamente bello, originale, coinvolgente, uno dei film più melò e più romantici, addirittura anche di più e anche al di là dell'origine di Tolstoi, no? Tutti i film che parlano di felicità forse sono uguali, ma questo è molto diverso perché parla di infelicità. È bello, è bellissimo il film Anna Karenina, purtroppo non ha avuto così forse il risultato che ci si poteva attendere, ma a mio parere rappresenta una conquista proprio nella mediazione e nell'essere trasversale sia al cinema sia al teatro, ma proprio in termini evidenti, perché la rappresentazione è in un teatro, quindi non è una cosa metaforica. Questa storia deve finire. Mi fate sentire come se fossi colpevole. Che cosa volete che faccia? Che andiate a Mosca a pregare Kitty di perdonarvi. No, non è questo che volete. Mosca, posso fare anche di meglio. Stasera ho rifiutato una nomina a Tashkent. Posso cambiare idea e non mi rivedrete mai più. Se avete considerazione per me, ridatemi la pace. Non ho pace da dare. Non può esserci pace per noi. Solo miserie. O la felicità più grande. E allora, grazie anche a Maurizio Porro che ha chiuso il novero delle grandi firme del giornalismo cinematografico italiano che ci hanno tenuto compagnia in questo pomeriggio di Natale per fare un po' un bilancio di questo anno 2013 che si sta chiudendo. Io invece vi do appuntamento a sabato per la puntata normale, diciamo così, della Rosa Purpurea alle 16:05, sabato pomeriggio, per parlare del cinema in sala. Grazie ancora per averci seguito, un saluto e ancora un augurio da Franco D'Assisti.